I primi dubbi sulle mie convinzioni nacquero quando la situazione sentimentale di mio fratello si complicò. Andrea aveva tutti i privilegi del primogenito. Per diritto acquisito, era lui, ad esempio, ad avere il compito di sigillare le bare di zinco con la fiamma ossidrica, aiutare mio padre a sotterrare, addirittura ad incidere sulle lapidi. Tutto ciò suscitava in me una piccola invidia nei suoi confronti, amplificata dal fatto che adempiva a queste mansioni con latente sofferenza. Una sera, dopo la cena consumata tra le consuete nuvole di marmo, Remo discuteva animatamente con mio fratello. Il raro caso di litigio tra i due proseguì all'esterno dell'abitazione nei pressi del cancello. Affacciato da una delle finestre esistenti, seguivo con lo sguardo l'allontanarsi di Andrea sulla propria moto Guzzi in direzione del paese. Il paese era collegato a noi tramite un lungo viale asfaltato, come un ponte che collega un'isola con la terraferma. La fiocca a luce rossa posteriore della moto pareva duellare con quelle dei lumini accesi all'interno del cimitero. La discussione tra i due verteva sulla convenienza della nuova relazione sorta tra Andrea e Lucia, la figlia del macellaio. La famiglia di Lucia era benestante, il lavoro del padre procurava una vita agiata e la poneva tra le famiglie più rispettabili del paese. Il padre di Lucia non vedeva bene questo amore sbocciato tra sua figlia e il figlio del becchino. Il becchino era una persona discreta e rispettata da tutti, ma certamente non poteva essere considerato un mestiere invidiabile. Tutti in paese ritenevano il lavoro di Remo un lavoro che non muore mai, ma nessuno avrebbe avuto il coraggio, meglio l'impudenza, di avere a che fare con lui se non per casi estremi e definitivi. Le donne della famiglia, in prima fila la nonna Aurelia, accudivano oltre la casa anche un piccolo pollaio sistemato dietro la cappella centrale neogotica, poco distante dal deposito delle bare, maldestramente recintato da una rete metallica. La nonna ottantenne, vedova del primo custode del condominio, aveva il ruolo di coordinatrice domestica. Elargiva consigli alla figlia Bianca, mia madre, sulla gestione amministrativa della famiglia e dal genero su come condurre il lavoro di becchino. La nonna fungeva anche da precettore per le mie due sorelle, nel pieno dell'effervescenza giovanile per niente annacquata dal luogo di residenza. Anzi, il loro mangiadischi era un generoso produttore di colonne sonore per ogni evento. Le due sorelle, una bionda, l'altra bruna, erano discretamente corteggiate dagli esemplari dei maschi rurali del paese, i quali non nascondevano la loro curiosità morbosa per quelle strane fanciulle. Uno di questi ragazzotti si distingueva tra gli altri, non solo per il lavoro che svolgeva, era installatore di nuovi apparecchi televisivi, ma soprattutto per il grado di educazione e cultura che possedeva. Aveva conosciuto le mie sorelle nel locale del paese adibito a discoteca, in pratica un magazzino nel retro del bar centrale, ed immediatamente si era invaghito di Graziella, la bionda, la quale si disinteressava completamente delle sue attenzioni, mentre era la bruna, Gabriella, che segretamente ricambiava l'interesse del giovane tecnico di nome Marco. Marco fu il primo estraneo a sorpassare la soglia di casa. Con la scusa di propagandare il nuovo elettrodomestico, riuscì ad approdare sull'isola senza avere motivi luttuosi. L'intento di Marco non era solo commerciale. Tentava di vendere quella strana scatola magica insieme al suo cuore, offerto in omaggio a Graziella, la quale rifiutava sistematicamente quella ingenua ma sincera merce. Mia madre era più corruttibile e convinse Remo ad acquistare la scatola magica, ottenendo il disappunto di Graziella e la felicità di Gabriella, poiché l'acquisto implicava una periodica assistenza da parte di Marco. In quelle ripetute visite tecniche di Marco a casa mia, si sviluppò un rapporto di amicizia tra noi. Quello della televisione, così Marco era riconosciuto dalla famiglia, divenne il mio primo vero amico. In quel periodo non avevo amici al di fuori della scuola. I miei compagni non frequentavano certi giardini, per cui il sottoscritto era un sereno ragazzo solitario, al quale non pesava modificare giochi che solitamente erano effettuati in gruppo, come guardie e ladri, nascondino, eccetera. I miei abituali compagni di gioco erano i residenti del mio giardino d'infanzia. Marco ruppe la routine domestica. Con me parlava dei suoi sogni, delle sue strane idee sulle speranze che poneva sul mondo intero. E di quel mondo ci aveva gettato l'immagine nella nostra isola. La Ronna era scettica di fronte ai discorsi del giovane tecnico. Ogni volta che accendavamo lo scatolone, lei lo osservava dal dietro perché diceva: «Se Marco ci vede il mondo, io voglio vedergli il culo per capirlo meglio». Mia madre, invece, si era gettata alle spalle i sogni di una vita ricca di piccole gioie ed emozioni legate alle sue aspirazioni di cantante. Incallita amante dell'opera lirica, Bianca navigava ormai con un sentimento di serena rassegnazione nella vita che si trovava a condurre. Nei ritagli di tempo rubati dai fornelli e la vendita degli accessori per le porte dei mini appartamenti condominiali, lumini, mazzolini di fiori, lampade votive, si dilettava a suonare il piano a muro posizionato nella stanza principale, semi nascosto dai mucchietti di lettere in bronzo e pezzi di marmo avanzati da qualche lavoretto di mio padre. Il volto di Bianca era luminoso e florido. Una donna di mezza età, leggermente obesa, ma con una dolce allegria interiore che la rendeva ancora piacevole, confermato dal ronzio che produceva intorno a lei Enzino. Enzino era uno scapolo del paese che si arrangiava con lavori su commissioni dati dai parenti dei defunti, provvedeva al cambio dei fiori, la pulizia delle lapidi, i lumini, e così riusciva a strappare una modesta rendita mensile che gli permetteva di sopravvivere in una modesta casetta in paese. Questa sua attività lo portava a frequentare quotidianamente il nostro giardino e in famiglia si insinuava che i suoi modi gentili e timidi, segnati da un grosso imbarazzo nei confronti di Bianca, fossero i sintomi del suo velato corteggiamento a mia madre. Remo non si preoccupava più di tanto, poiché aveva il sospetto che Enzino fosse una donnacchera. Questa era la voce ricorrente che circolava in paese. In realtà Enzino aveva un aspetto dimesso e triste. La sua esile figura ricurva tradiva il suo stato di profonda solitudine e infelicità. Sbrigare questi lavoretti gli dava la possibilità di allontanarsi dalle male lingue paesane e godere di una compagnia meno ostile. Enzino arrivava in cimitero con la sua bicicletta che appoggiava al muro della mia abitazione e, nonostante tutte le maledicenze, da tutti noi era ben voluto e rispettato. L'unica persona che lo derideva con battutine velenose era Vittorione, e tra i due aleggiava un sottile filo d'odio. Questi erano i personaggi con cui condividevo la maggior parte delle mie giornate e con i quali ho iniziato il mio viaggio.